Quando era arrivato alla Maddalena il 25 maggio, Turi Vaccaro aveva deciso di digiunare e stare in silenzio per 7 giorni. Rinuncia al cibo e rinuncia alla parola, a parte gli interventi in assemblea. Una pratica di purificazione. Turi era siciliano, originario di Marianopoli, provincia di Caltanissetta. Si è trasferito a Torino da ragazzo ed era stato operaio Fiat. Aveva 56 anni, lunghi capelli e barba selvatica. Girava scalzo e sovente a torso nudo. Viveva tra Italia e Olanda, dove aveva una figlia ventenne di nome Anneki. Turi aveva preso parte alla lotta per l'obiezione di coscienza, alla mobilitazione contro gli euromissili a Comiso, alle battaglie antinucleari, a tutte le più importanti campagne non violente degli ultimi 30 anni. Purché vi fosse azione diretta, perché Turi era un uomo d'azione diretta. Anzi, da gesto profetico. Testimonianza concreta e viva, fatta col corpo e affrontandone le conseguenze. Sole rosso al tramonto, sole grosso e stanotte cercherò la stella piangente che mi porti verso il sud. Così cominciava San Lorenzo, una poesia scritta da Turi tanti anni prima. La notte del 10 agosto 2005 il cielo sopra Wunstrecht era velato da un bagliore giallastro che nascondeva le stelle cadenti. Turi aspettava, seduto sull'erba umida, fuori dai campi visivi delle telecamere di sorveglianza, davanti a una delle più importanti basi dell'aeronautica olandese. Porte chiuse, cancelli di ferro e binari ritmano l'angoscia quando il sole muore, e su un cucuzzolo di sabbia gorgheggi ingenui. Attimi di felicità. All'alba Turi ha penetrato nella base. In un angolo buio aveva fatto yoga per calmarsi. Poco dopo le 6 del mattino aveva rotto una finestra ed è entrato in un hangar. Nell'immenso salone d'officina respiravano due bombardieri F-16, predisposti a portare bombe B-61, bombe nucleari all'idrogeno. Turi era arrivato a Wunstrecht il giorno prima, 70° anniversario dell'atomica su Nagasaki. Aveva con sé un martello. L'aveva comprato ad Assisi per esplicito richiamo al messaggio di pace di Francesco. Sul manico di legno aveva scritto Spade in aratri, una citazione da Isaia 2:4. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Nel 1980 quei versi biblici avevano ispirato il movimento pacifista dei Plowshares, le lame d'aratro, nato negli USA per iniziativa dei fratelli Bergan. Nel 2005 Turi ne faceva parte da 15 anni. Il martello aveva sfasciato le console e i computer di bordo dei due aeroplani. Negli abitacoli, Turi aveva sparso un po' del proprio sangue, gesto simbolico tipico dei Plowshares, e una manciata di semi di segale. Poi aveva appeso qui e là disegni di bambini contro la guerra. Aveva anche lasciato una torta, rigorosamente biologica, e un libro su Giona la balena. Sul pavimento dell'hangar, accanto agli F-16, aveva scritto col gesso Peace. Plowshares, not ready for the next war. Poi si è messo a suonare il flauto. Attendeva che venissero ad arrestarlo. Nel frattempo, una telefonata aveva avvisato la polizia. In uno degli hangar c'è un intruso che sembra un elfo.